Tempo di sport con Carlo Genta. Beh, da oggi pomeriggio forse parleremo un po' meno delle trombette, delle vuvuzelas che sono state le grandi protagoniste di questa apertura di mondiale con un sacco di notiziole correlate, e parleremo un po' più di pallone, perché in questo mondiale è entrato dopo 3 minuti di Argentina-Nigeria Sua Maestà Leo Messi, che non ha ancora segnato ma forse tra poco lo farà. Il gol che tiene l'Argentina in vantaggio 1-0 sulla Nigeria, siamo al quinto della ripresa, lo ha segnato un difensore, tra l'altro uno dei più contestati nella squadra di Maradona, cioè Gabriel Heinze. Ma Messi sta facendo le cose straordinarie. Andiamo, direi, subito in Sudafrica dal nostro inviato Dario Ricci a Joburg, Johannesburg, teatro Ellis Park di questa partita. Ciao Dario. Buonasera Carlo, siamo proprio qui all'Ellis Park di Johannesburg, quando è il 51esimo di gioco, sesto della ripresa, calcio d'angolo per l'Argentina in vantaggio, come ricordavi da studio, grazie alla rete di Heinz. Al sesto minuto il calcio d'angolo battuto da Veron, la deviazione di Samuel, ancora una volta pericoloso sulle palle da fermo, alta sulla traversa. Argentina che nel primo tempo ha avuto più di un'occasione per raddoppiare, almeno tre, quelle avute da Lionel Messi, più in forma dei Bianco Celesti, bloccato sempre però da un Eninaia, il portiere della Nigeria, in forma strepitosa, e altre due buone occasioni create sempre da Messi sono finite sui piedi di Higuain, che invece le ha sprecate sotto misura. Nigeria che, malgrado il gol subito, non ha cambiato la tattica di gioco anche dopo la rete di Heinz, sempre molto accorta la squadra di Zagreb, che ha avuto a sua volta un paio di confusioni che in qualche modo ha sospettato Romero. Un'Argentina che però dopo la rete ha abbassato notevolmente il ritmo di gioco, sotto dettatura, diciamo, di quello che è il maestro del centrocampo argentino, cioè Perón. È entrato intanto Martins, l'ex interista a posto di Obinna, nella squadra nigeriana. Se sei d'accordo Carlo, ruberei un istante a Paolo Condò, collega della Gazzetta dello Sport e grande conoscitore del calcio internazionale sudamericano, proprio per un commento anche su quella che è stata la prova finora del personaggio più atteso, che non è stavolta in campo ma è a bordo campo, cioè Diego Armando Maradona. Allora Paolo, è questa la giornata di Maradona che torna sul palcoscenico mondiale. Un Diego, come l'hai visto questi primi 45 e poco più di gioco? Intanto l'ho visto in giacca e cravatta, cosa decisamente insolita. Poi l'ho visto subito felice perché il gol di Heinz è venuto molto presto e ha sbloccato la partita. E poi però l'Argentina, pur avendo costruito diverse occasioni da rete con Messi e con Higuain anche, non è riuscita ad avere quella fluidità di gioco dei primi 10 minuti, che ci faceva ben sperare in una partita molto divertente. Ci sono stati molti sprazzi, però in generale mi sembra che gli argentini attendano la palla da fermi, in movimento, e soprattutto attendano che Messi faccia il miracolo, cosa sempre possibile perché Messi è uno che i miracoli li fa, però forse sono un po' pigri nell'attesa che il loro fuoriclasse risolva la partita. Maradona dovrebbe svegliarli. Un po' sottotono Di Maria e Tevez, no? Quel Tevez per il quale proprio Maradona aveva speso parole molto pesanti alla vigilia, dicendo che questa squadra non può fare a meno di lui. Sì, Tevez è un attaccante che è stato inserito come terza punta da Maradona perché è anche capace di rientrare, di coprire, di aiutare i difensori. Però fino a questo momento è questo che ha fatto essenzialmente, più che l'attaccante, anche perché la catena d'attacco è composta essenzialmente da Messi e Higuain. Io vedo che Veron cerca sempre loro due quando è il momento di fare l'azione, e tu giustamente hai detto che c'è un giocatore che a me piace moltissimo, che è molto bravo, che è Di Maria, che è del tutto fuori dalla manovra, non è stato mai chiamato in causa, e infatti ho notato che al rientro dagli sfogliatoi, nel momento in cui l'Argentina è andata allo sfogliatoio, Maradona è andato proprio da Di Maria e ha fatto con lui il tragitto, evidentemente voleva chiedergli qualche cambio tattico. Grazie a Paolo Condò. E sì Carlo, ecco, quindi bene, questo è un po' il disegno tattico della partita. Tra l'altro Maradona che in ogni occasione possibile chiama a sé vicino Veron per confrontarsi, per impostare il gioco. Qualche scherzo anche in campo tra Rodriguez e Mascherano, tra gli argentini. insomma, diciamo una partita più complessa di quella che si è vista finora e di quello che lascerebbero immaginare anche le proteste di Messi. Sì, attenzione a Nigeria che attacca, ma non riesce a creare pericolo all'Argentina. Tutte argomentazioni reali, però partiamo dal presupposto, insomma, che questa Argentina era il grande punto interrogativo di questo mondiale. Legato soprattutto a quel signore oggi elegantissimo con in questi tempi con la barba che sta seduto in panchina, oggi impeccabile Maradona, che tra l'altro si è cambiato in 2 minuti prima della partita, ha fatto riscaldamento in tuta, ha condotto il riscaldamento dei suoi in tuta, e poi alla velocità del suono è entrato nel spogliatoio, è sbucato con un completo grigio e cravatta sul beige, veramente elegante. E al di là di questi dettagli, comunque, Messi che ha inventato molte cose, diceva prima giustamente Paolo Condò, lui è uno che i miracoli li fa, probabilmente un argentino un po' pigrone nell'attendere il miracolo risolutivo del suo fuoriclasse. Però tutto sommato la domanda che mi faccio e che vi faccio è questa: non so se state guardando la partita, se avrete modo di guardarla. Poi un messaggio di Giorgio: mondiali senza TV per i poveracci che non possono permettersi Sky. L'avesse fatto Mediaset ciò che si è permesso Murdoch, i giornali e i politici di sinistra avrebbero fomentato una rivolta, ma così è tutto ok anche per voi. Ma tutto ok anche per voi non saprei. Questo è un altro canale per buttarlo in politica, come stanno facendo molti. Io personalmente non trovo nulla di scandaloso nel fatto che nel 2010 il calcio sia un prodotto a pagamento. Certo costa molto caro, però può essere anche un'occasione per attrezzarsi e per vedere le partite, se uno non ha Sky o non vuole Sky, per attrezzarsi e vedere le partite in modo un po' meno pigro, un po' meno convenzionale, che non la solita poltrona del solito salotto. Però sono discussioni veramente di frontiera. Il discorso vero legato a questa Argentina è questo: se al posto di Wayne, che è un bravissimo giocatore, oggi ci fosse stato Diego Milito, che è seduto in panchina nel giorno del suo 31esimo compleanno, io sono convinto che su quel tabellone al 57-23 di gioco non starebbe scritto 1-0, ma almeno 2-0, viste le palle gol, almeno 4, che Messi ha depositato sui piedi dei suoi attaccanti. Aspetto naturalmente i vostri interventi. Dario Ricci rimane collegato con noi, 800 24 00 24 numero verde. Poi parliamo anche di, dopo il traffico, di tristezza, perché tristezza mi ha fatto la Grecia di oggi. 6 anni nello sport sono un'era geologica, e Rehagel è sceso dall'Olimpo, aveva condotto la Grecia un incredibile titolo europeo. Oggi la Grecia è davvero una squadretta che è stata distrutta dalla Corea del Sud. Tempo di sport. Messi sulla sinistra scappa via a 3 giocatori nigeriani, prova a metterli in mezzo ed è un nuovo calcio d'angolo per l'Argentina, 59-08, Argentina 1, Nigeria 0. 800 24 00 24 invece è il vostro numero verde per questi mondiali. Gli appuntamenti spero li conoscerete già, ma poi li ricordo tutti: oggi solito orario fino alle 18, domani consueta domenica dalle 17 alle 19, ed è basket la sera, ma questa è un'altra storia, e poi gli speciali durante la settimana dal lunedì al venerdì, oltre a Tempo di Sport con Gigi Garanzini dalle 2 alle 3, alla sera dalle 21 alle 22.30, e poi lunedì gioca l'Italia, quindi naturalmente staremo insieme molto più a lungo. Però al di là delle questioni di palinsesto, parlavo di tristezza prima, quella che mi ha fatto oggi la Grecia. Oggi alle 13.30 Grecia-Corea del Sud, è andata così. Buon movimento in area, non esce Tsorbas, il gol di Lee Jung, che sfrutta un errore clamoroso della difesa della Grecia. E Lee Jung, il difensore centrale, porta in vantaggio la Corea del Sud. Dopo 6 minuti e mezzo dall'inizio della gara, Vintra perde un pallone pericoloso. Attenzione a Parca. Parca si presenta in area. Parca fa tutto lui. Parchisun sfrutta l'errore di Vintra e forse opziona la vittoria per la sua Corea. 2-0 tondo, ma poteva essere anche un risultato più ampio. La Grecia davvero non è mai esistita, e finora abbiamo visto pochissimo, però è decisamente la peggio squadra che ho visto fin qui nelle 2 partite nelle tre partite e mezza di questo mondiale che è soltanto all'alba. Ieri abbiamo visto Sudafrica, non mi è sembrato tanta roba, la Francia con i soliti problemi soprattutto offensivi, l'Uruguay che è una squadra, insomma, la classica squadra sudamericana con diversi problemi nel creare occasioni da gol. Un'altra squadra sudamericana che ci interessa più da vicino, la vedremo lunedì sera contro un'Italia di cui poi parleremo. Noi siamo qui a girarci intorno, no? Dalle nostre parti, con le solite polemiche di confine legate ai premi, legate alla visione delle partite nei pubblici uffici. Mi sembrano davvero tutti problemi di confine, come di confine è, almeno dal mio punto di vista, la dichiarazione di oggi di Giancarlo Abete, che ha detto la consegna della Coppa del Mondo a Sudafrica da parte dell'ex giocatore francese Patrick Vieira è una gaffe della FIFA, quella Coppa non l'ha vinta lui né nessun altro giocatore, ma l'Italia. Vorrei parlare di argomenti di quest'alba mondiale con una voce che conoscete bene, che sentite tutti i giorni, Fabio Tavelli da Sky. Ciao Fabio. Buongiorno Carlo, ciao a tutti. Senti, la luce si è accesa dopo 3 minuti di Argentina-Nigeria, dicevo prima, con quello slalom di Messi sulla sinistra. Da lì ho visto la prima vera grande cosa da mondiale. Sì, la prima è per il momento unica, nel senso che poi Messi ne ha fatte ancora, perché il portiere della Nigeria ha fatto 2 parate davvero fantastiche proprio su Leo Messi, ed è una partita che è ancora viva, forse per colpa dell'Argentina, forse per merito del portiere nigeriano. Partita ancora viva, malgrado l'Argentina sia certamente superiore, ma adesso ad esempio c'è la Nigeria che ha un calcio di punizione che è pericolosissimo, quindi l'Argentina deve stare molto attenta a chiudere a questa partita. Resta il fatto che l'Argentina ha dimostrato davvero una forza d'urto pazzesca, ma in questa partita per il momento, avendo avuto 5 occasioni da gol, ha spremuto soltanto una rete. Detto questo, la mia personalissima sensazione sia che per giocare e vincere contro l'Argentina sia necessario aggredire Veron ogni volta che Veron ha il pallone e cercare di attaccare sempre, perché l'Argentina ogni volta che gioca nella tua metà campo fa veramente spavento. Questo è vero, la fase difensiva, per dirla come fanno gli allenatori bravi, che non è impeccabile. Fabio, che altri temi hai trovato in questi primi 2 giorni, anzi primo giorno e mezzo di mondiale? Rapidamente su tutte le partite, Messico bravissimo a toccare la palla finché si arriva ai 16 metri, ma Messico con 2 problemi grossi, un portiere e un attaccante. Tu mi dirai, problemi da niente, no, problemi seri, perché il Messico ha giocato un gran primo tempo contro i Bafana. Piace l'entusiasmo, piace l'approccio mentale alle partite che hanno le squadre africane, piace vedere i Bafana che entrano allo stadio cantando, danzando, anche i nigeriani, però poi le partite le vincono gli altri, quindi io trovo che anche questo mondiale boccerà a livello di prime 4 le compagini africane. Lietissimo di venir smentito e di venir ovviamente contraddetto dai risultati. Poi non granché, una Grecia veramente triste, penosa, veramente triste, una squadra veramente ormai fiacca, stanca e così. La Corea che ci aspettiamo, c'è una squadra che corre, che gioca la palla bassa, una squadra che gioca il suo calcio e che quindi può andare tranquillamente negli ottavi di finale. Adesso c'è un contropiede 4 contro 2 dell'Argentina ancora una volta con Messi, io credo che debbano chiuderla la partita e invece Messi l'ha messa fuori di nuovo con Maradona. È fantastico, perché io poi sto vicino alla regia, per cui guardo la telecamera dedicata su Maradona, ed è esclusiva su Maradona, ed è uno spettacolo, spettacolo vedere lui. C'è un momento nel primo tempo quando Veron va a parlare con lui, nel quale praticamente il 90% delle parole in questo dialogo le mette tutte Veron, e mi ha detto un collega argentino, non stupirti, perché l'allenatore di questa squadra non è mica Maradona, l'allenatore è Veron, per cui una cosa... l'ha portato apposta per allenare l'Argentina. Lo spunto, Carlo, che mi piacerebbe, onestamente, sapere cosa ne pensano anche i tuoi ascoltatori, è su Jabulani, perché Jabulani è stato crocifisso prima di vederlo in campo. Sì. Io di tutti i gol che ho visto non mi pare ci siano delle cose strane ascrivibili a Jabulani. Adesso deve chiudere l'Argentina, niente, anche stavolta una grande parata del portiere. Ne ho parlato ieri sera con Luca Marchegiani e lui da ex grande portiere, mi ha detto che probabilmente nei lanci lunghi, nei cambi di ritmo, nei rilanci dei portieri, guarda che adesso la Nigeria pareggia, no? No. Il pallone ha un po' di da un po' di difficoltà ai sì. colpitori, ai colpitori di testa. Però Fabio, la sensazione non è che beh, io vedo questo pallone partire non in maniera particolarmente irregolare, ma molto spesso come una scheggia. Io però penso non sia colpa del pallone, non sia ascrivere al pallone questo, quanto alla, insomma, si gioca a 1700 metri a Johannesburg. Il problema vero sia questo. Siamo a 1700 metri e un clima fantastico, devo dirti, perché è in inverno, ma nelle ore di sole puoi stare tranquillamente fuori di casa in camicia e non soffri per niente. Come in paradiso. La casa dove io abito non ha nemmeno il riscaldamento, per cui questo ti fa pensare al tipo di approccio che hanno i sudafricani con l'inverno. Però è vero, il dato climatico secondo me inciderà non poco da questo punto di vista. Fabio, ti chiedo ancora questo: stasera c'è un'altra stella che si accende, no, nel cielo africano, sì, dopo Messi, sì. Però mi domando qual è la stella, se è Rune o se è Capello. Guarda, non lo so, vediamo alla fine, perché poi io tifo sempre per i giocatori, perché poi lo spettacolo ce lo regalano loro. Però se l'Inghilterra farà un grande mondiale, come credo, penso che Capello si debba prendere una ampia fetta di merito, perché l'Inghilterra negli ultimi anni ha sempre avuto delle situazioni abbastanza travagliate, con espulsioni nei momenti decisivi, uscite ai calci di rigore, quindi non si può dire che l'Inghilterra abbia bucato completamente dei mondiali, perché sai, quando esci ai quarti su calci di rigore, oppure esci perché sei rimasto in 10 per metà partita, non puoi dire che gli altri ti abbiano surclassato. Però se l'Inghilterra ha una possibilità di vincere il campionato del mondo, ce l'ha, perché ha questo signore in panchina e nient'altro, perché... Sì. Perché lui fa veramente la differenza in questo. Fabio, ti chiedo un'ultima cosa, visto che è una domanda di un ascoltatore, poi la giro anche a Dario Ricci. Voi potete rispondere, visto che siete lì. Insomma, c'è un ascoltatore che domanda: ma è vero che queste vuvuzela sono così fastidiose da disturbare tutti gli attori in campo e in panchina? Non ci si fa l'abitudine? Oggi ho letto di Pazzini che dice che effettivamente danno molto fastidio a chi è in campo. C'è il CT della Danimarca che abbassa il cornetto acustico, ci sono i tappi per le orecchie che vanno a ruba al mercato sudafricano, ma è veramente così impossibile? Sono come le trombette giapponesi delle finali intercontinentale? Guarda, se possibile anche peggio. Anche io tra l'altro ho un vuvuzelante nella zona vicina al residence dove sto, che ogni tanto prende e comincia a suonare a qualsiasi ora del giorno e della notte. Io ho provato a convincerlo con le buone, credo che passerò alle cattive nel giro di poco. Per questo credo valga come risposta. Non si reggono più. Ti dico solo che noi ieri qui dal centro stampa, che sta a 300 metri in linea d'aria dal Soccer City Stadium, sentivamo le vuvuzela come se ce l'avessimo a un metro. E venivano dallo stadio, che è uno stadio interamente coperto, quindi che tendenzialmente tiene giù il suono. Questo credo renda l'idea. Grazie Fabio, buon lavoro. Ciao a tutti. Grazie. Ciao. Dario Ricci, la dan così fastidio anche a te? Tu me l'hai portata, mi ricordo, l'avevi suonata in questo studio, la vuvuzela. Infatti, ma ne avevamo suonata una e faceva anche compagnia. E a migliaia, come le senti in sottofondo, è tutto un altro effetto. Detto questo, ormai stanno diventando leggenda anche gli effetti collaterali delle vuvuzela. Ieri leggevo su un giornale sudafricano che un medico tedesco avrebbe detto che addirittura trasmettono malattie ai cervi. Secondo me fanno parte di questo mondiale sudafricano, quindi accettiamole, sono anche divertenti. La prima vuvuzela, ti dico, ieri il giorno dell'inaugurazione è suonata, almeno vicino a casa mia, alle 6:10 del mattino, quindi ha fregato di poco il gallo di turno nel dare la sveglia. Che stanno è andata peggio, perché la TV sudafricana sottolineava che le prime vuvuzela hanno cominciato a suonare alle 5, quindi c'è sempre chi sta peggio. Sì. Peggio di una notte all'Hollywood, insomma, ne esci rintronato da quegli stadi. Io sarei per passare subito alle cattive, come diceva prima Fabio Tavelli. No, sto scherzando naturalmente. 800 24 00 24, se volete intervenire, magari suonare al telefono a vuvuzela se ce l'avete in casa, o anche no. Dario Ricci, dammi un ultimo flash su Argentina-Nigeria di cronaca, poi ci fermiamo un attimo. Allora, siamo al 70° di gioco. Da qualche istante la Nigeria si sta rendendo pericolosa, come in questo istante con Obiepinge sulla sinistra, prova a puntare Rodriguez, poi passa dentro verso Martins, il tiro in diagonale, fuori di pochissimo, Nigeria da almeno 5 minuti, propensa all'azione offensiva, e che è andata vicino anche in precedenza con Keita alla porta dell'Argentina, che in questo momento sembra pagare lo sforzo fatto nel primo tempo. Nigeriani che invece, come poteva essere prevedibile nel piano tattico della gara, dopo aver in qualche modo limitato i danni nel momento migliore dell'Altipelesse, provano adesso il colpaccio per strappare un sorprendente a questo punto pareggio. Chiaramente però si aprono degli spazi per il contropiede argentino, l'azione che avevate descritto da studio pochi istanti fa ne è stato l'esempio più classico, con Messi che ancora una volta è andato a sbattere contro le mani di Eleama, che è veramente uno dei protagonisti in campo, e finora insieme al portiere sudafricano Kune, Carlo, permettimi di sottolinearlo, anche tra i giocatori rivelazione di questo, di queste primissime battute del mondiale. Bene, molto bene Dario Ricci, ti ringrazio, ci sentiamo naturalmente più tardi. C'è chi scrive, chi domanda, Lorenzo via SMS: questa Grecia è così penosa, come ha fatto a qualificarsi? Chi ha battuto nel suo girone? Beh, un girone, classico girone che lo vinco anch'io, no? 3-0 in Lussemburgo per aprirlo, quindi 2-0 in Lettonia, 3-0 sulla Moldavia, sconfitta interna con la Svizzera 2-1, quindi un pareggio 1-1 in Israele, una vittoria 2-1 su Israele, altra sconfitta con la Svizzera 2-0, quindi pareggio con la Moldavia 1-1, 5-2 alla Lettonia, 2-1 al Lussemburgo, 0-0 con l'Ucraina. E poi la vittoria finale decisiva 1-0 in casa di Shevchenko. Cammino non brillantissimo e la Grecia è veramente, ripeto, secondo me una squadraccia. A tempo di sport. Mi domando dove cavolo siete. 800240024, tra poco cominciamo anche a parlare con gli ascoltatori. 349-238-6666 invece per i vostri messaggi. Ma vi appassiona o no questo mondiale? O siete arrabbiati perché non riuscite a vederlo tutto dalla poltrona di casa, grazie a mamma Rai? Intanto l'Argentina 78-50 di questa partita, Argentina 1 Nigeria 0, decide per il momento il gol di Heinz dopo 5 minuti, magari adesso la chiude perché proprio in questo istante è uscito un Higuain piuttosto fumoso e impreciso ed è entrato Diego Milito, maglia numero 19 albiceleste nel giorno del suo 31esimo compleanno. Abbiamo parlato prima di Capello, mi domando se la stella della serata africana sarà Rooney o Fabio Capello. Intanto Maradona è uno spettacolo, da vedere, confermo, da vedere davanti a quella panchina almeno quasi quanto Messi in campo. Messi oggi, torno a ripetere, secondo me ha giocato una grandissima partita e è giusta l'impressione di chi ha detto prima un'Argentina forse un po' pigra nell'aspettare la magia risolutiva del suo fuoriclasse. Però dicevo di Capello, la stella è Rooney o Capello di questa Inghilterra? Sentiamo cosa ha detto Don Fabio, anzi ormai Mr. Fabio, ieri alla vigilia. Io ho molta fiducia nella squadra perché abbiamo giocato bene durante le qualificazioni, anche nelle ultime partite amichevoli. C'è una grande fiducia e sento la responsabilità di tutto questo, però credo che questa volta abbiamo una squadra che può arrivare in finale. Così Fabio Capello, c'è chi scrive: un mondiale per ricchi, chi non può permettersi Sky si attacca. No, i pigri si attaccano probabilmente. Io non voglio difendere nessuno e torno a ripetere, però chi è abituato a mettersi sulla poltrona di casa e a vedersi tutte le partite regalate tra virgolette dalla Rai, magari potrebbe usare un po' di fantasia, no? Ad esempio qua sotto, tanto per dirne una, qui al Sole 24 ore c'è uno spazio bellissimo e vengono trasmesse tutte le partite dei mondiali su maxi schermo eccetera, ma come qui in molti altri posti ci sono luoghi di ritrovo. Può essere invece un'occasione per scardinare certe abitudini. Attenzione all'Argentina, attenzione all'Argentina. Dario Ricci, cosa succede? Dario Ricci non mi sente, allora ve lo racconto io cosa succede. Messi va a chiudere un triangolo e poi si fa parare per l'ennesima volta il tiro dal suo nemico numero uno, e cioè il portiere nigeriano, almeno oggi. Adesso vorrei fare due chiacchiere di Italia, perché il grande ballo, il grande Sanremo della formazione della nazionale è in pieno corso, anche se non mi sembra così. Non mi sembra un Sanremo così appassionante, visto che i dubbi non sembrano tantissimi. Enrico Currò, inviato di Repubblica. Ciao Enrico, grazie. Ciao. Non mi sembra una vigilia particolarmente sofferta al capitolo formazione, no? diciamo che secondo me non è sofferta dal punto di vista dei nomi, perché essendo questa una nazionale sprovvista di stelle o comunque di nomi che suscitano dei grandi dibattiti, sapere se gioca Montolivo o Palombo, Marchisio, se davanti c'è Pepe, se in difesa c'è Maggio, credo che francamente ai tifosi dica poco. Però è una vigilia sicuramente sofferta invece dal punto di vista di Lippi, perché Lippi si ritrova, che se ne pensi e che lui stesso dica, ad avere dei dubbi che non aveva mai avuto e che non aveva avuto soprattutto 4 anni fa al Mondiale di Germania, dove quando l'Italia arrivò alla prima partita col Ghana sostanzialmente sulla formazione non c'era nemmeno un'incertezza. Sì. Invece stavolta le incertezze ci sono e sono legate non solo alla formazione ma che al modo in cui la squadra giocherà, e questo è abbastanza strano tutto sommato. In ogni caso quello che si può dire è che qualunque sia la formazione che sceglierà Lippi, si tratterà di 11 uomini che non hanno mai giocato insieme. E questo, anche questo è un inedito abbastanza, quindi diciamo è poco appariscente, i dubbi sono poco appariscenti, però esistono. A un mondiale sai meglio di me come vale la pena di sfruttare l'entusiasmo, il momento magico eccetera eccetera, per questo che sono Milito fuori dall'Argentina continuo a non vederlo. Mi sembra che tra gli azzurri quelli che stiano meglio, che stiano vivendo con particolare entusiasmo questi giorni per motivi anche molto diversi, siano Pazzini e Pepe. Sì, apparentemente sì, però sai, si tratta di due giocatori che non hanno un'esperienza internazionale tale da poter far pensare che possano diventare i protagonisti di questo mondiale. Diciamo che partono tutti e due, anche se Pepe poi a quanto pare potrebbe anche giocare dall'inizio, non partono come, per fare un esempio classico della nostra storia della nazionale, come Paolo Rossi e Cabrini del 78. Sono due giocatori indubbiamente forti che però hanno ancora loro stessi per primi dei dubbi su se stessi, hanno senz'altro un grande entusiasmo, non so quanto questo entusiasmo possa poi essere davvero giustificato dai fatti, nel senso che Pazzini non dovrebbe giocare e Pepe si trova secondo me a dover gestire un ruolo un po' temporaneo, magari diventerà un protagonista mondiale, ma se gioca questa volta gioca perché Camoranesi non sta ancora a posto e perché Lippi vuole un determinato tipo di copertura che gli altri giocatori dell'attacco non sono in grado di garantirgli. Tanto si copre Maradona, esce Di Maria deludente, oggi entra Burdisso. Enrico, ti chiedo ancora questo, tra poco farò sentire agli ascoltatori le parole di oggi di Gattuso, che come al solito è stato molto brillante in conferenza stampa, il vero grillo parlante dell'Italia ormai da anni. Ha detto: dopo questo mondiale lascio l'azzurro, però sogno di tornare in azzurro come commissario tecnico per un mondiale. Guardate un po' cosa ha detto Gattuso, soprattutto se l'è presa con i politici per tutte queste polemichette che trovo estremamente di confine, che hanno accompagnato, almeno qui in Italia, che stanno accompagnando la prima partita della nazionale. Gattuso è di gran lunga il giocatore più interessante e più sincero tra quelli che popola il calcio italiano e non solo italiano in questo momento, quindi tutte le rare volte che parla, anche senza volerlo, perché oggi lui non voleva certamente scatenare qualche caso, però ci riesce per il semplice fatto che dice delle cose piuttosto semplici ma che sono vere. E quindi lui cosa ha detto sostanzialmente? Ha detto due cose. La prima è che i politici hanno dato realmente tanto fastidio ai giocatori, perché la loro è stata un'entrata, per usare un termine artistico, assolutamente demagogica. Sì. Questo ai giocatori ha dato molto fastidio, perché io li capisco perfettamente. Sai, loro sono stati un po' feriti dal fatto che li si dipinge sempre come dei ragazzi che vivono un po' sulla luna, nell'ovatta, pieni di soldi eccetera. Però conoscendoli un po' più da vicino, naturalmente non si può generalizzare, però in realtà molti di loro non solo hanno perfettamente presente, ma hanno anche, e uno di questi è proprio Gattuso, una particolare sensibilità nei confronti delle persone che hanno meno di loro. Quindi sentirsi dire da un politico che normalmente non si interessa di calcio e che oltretutto, come nel caso specifico, non è esattamente il prototipo del tifoso della nazionale, sì, sentirsi dire che devono ridurmi per aiutare il paese che è in crisi, francamente. Sì, ma vedi, la cosa fastidiosa, Enrico, la cosa fastidiosa, io l'ho detto già una settimana fa, poi adesso so già che è un argomento che appassiona molto. È chiaro che è demagogico, è chiaro che è una cosa che la stragrande maggioranza condivide, che tira la cinghia, condivide, però la cosa fastidiosa è usare questo. Io no, non lo condivido, perché ho un'idea diversa sugli ingaggi degli sportivi, e stiamo parlando di sport professionistico in questo caso. Poi si potrebbe discutere di come è amministrato, però stiamo parlando di sport professionistico. Però la cosa fastidiosa è che venga usato la nazionale, il calcio, il mondiale come cavallo di Troia per mille argomenti, per farsi alla fine un po' di pubblicità. Ecco, hai visto, Calderoli ha ragione. Questa è la frase più gettonata, mi pare, in questo. Però sai, è anche vero che Gattuso ha detto una cosa abbastanza così, gli è venuta spontanea, io so che la pensa realmente, che anche questo è abbastanza vero. Cioè lui dice, ma noi non ci occupiamo di politica, non parliamo di politica, perché i politici devono parlare di calcio? E è chiaro che non si può impedire a un politico, a un ministro, di parlare di calcio. Però di usare il calcio, lui forse voleva dire di usare il calcio, sì, che si può impedire. Poi ha detto un'altra cosa che è forse più importante ancora, e cioè di fronte a questo episodio abbastanza sgradevole da parte della FIFA, che ha consegnato in occasione della presentazione dell'inno di Shakira, ha consegnato la Coppa del Mondo a Vieira, cioè un giocatore francese, anziché a un italiano, come sarebbe stato logico, oppure a un sudafricano, come forse si poteva fare per evitare gaffe di questo tipo, lui ha detto, gli è stata fatta notare questa cosa, lui ha detto: io non devo parlare di questo perché sono un giocatore, ho le mie idee, chiedete al presidente federale. E quindi in qualche modo, con questa sua uscita molto naif, ha detto un'altra verità, cioè ha detto che in questo momento, a livello istituzionale, a qualsiasi livello, l'Italia, diciamo, subisce delle cose che sarebbe bene che non subisse. Infatti poi la reazione è puntualmente arrivata da Abete su richiesta su assist di Gattuso, insomma, Gattuso in versione assist per presidente federale. Enrico, ti ringrazio, buon lavoro laggiù. Ciao. A tempo di sport. Dunque, faremo un ultimo collegamento con Johannesburg, con Dario Ricci, nostro inviato laggiù. Argentina-Nigeria sta per finire, vero Dario? Dario? Eccoci Carlo, siamo già al secondo minuto di recupero qui all'Ellis Park di Johannesburg. Argentina sempre in vantaggio per 1-0, ma la Nigeria in questa ultima fase della partita si è fatta sempre più pericolosa. All'83esimo è stato Uche ad avere sul sinistro, all'altezza del dischetto del rigore, la palla buona per il pareggio. Ebbene, l'attaccante nigeriano ha toccato goffamente alto sulla traversa della porta difesa da Romero, un'Argentina che poi è corsa progressivamente ai ripari. È uscito prima Higuaín, è entrato quindi Diego Milito, poi Perón ha lasciato spazio a Maxi Rodriguez e infine Maradona ha dato spazio anche a Furtizzo per rinsaldare la difesa. Ci sono state però nel frattempo anche un paio di altre buone occasioni per Messi, ma oggi niente da fare per la Pulce e Nemaia. Il portiere nigeriano si è dimostrato insuperabile e di fatto proprio insieme a Messi direi il migliore in campo. Ora Argentina ancora avanti con Tevez sulla sinistra, cerca spazio, prova a dialogare con Milito, ma chiude il difensore, la difesa nigeriana, nigeriani che provano a ripartire ancora con Uche, ma è fallo laterale per l'Argentina ancora in zona d'attacco. O manca ormai almeno poco più di un minuto al fischio finale dell'arbitro tedesco Wolfgang Stark. Argentina ancora in vantaggio, Tevez sulla sinistra, prova a congelare il pallone all'altezza della bandierina, il calcio d'angolo, perde però il pallone, allora è rimessa laterale per la Nigeria, ultimi secondi, ultimi tentativi per i giocatori di Lagerbach per provare a riportarsi in attacco, ma ora Messi che riconquista la palla, è finita. Argentina batte Nigeria 1-0, il gol di Aiste al sesto minuto, l'Argentina calcia così in testa alla classifica del gruppo B, la Corea del Sud, che nel pomeriggio ha battuto per 2-0 la Grecia. Belli parche tutto. Grazie Dario, molto bene. Argentina batte Nigeria dunque 1-0, soffrendo non poco, soprattutto nel secondo tempo. Grande felicità di Diego Maradona, come è giusto che sia, e questa per l'Argentina è andata. Ho ancora Gattuso da farvi sentire, ma prima vi faccio sentire la voce di Andrea da Pordenone. Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Semplicemente lei diceva di ingegnarsi per poter vedere le partite al di là di Sky. Ecco, noi saremmo fortunati, però in provincia di Pordenone, ma credo che valga per tutta la zona adriatica, riusciamo a vederle sul digitale terrestre, quindi in maniera perfettamente legale, attraverso la televisione croata. Sì. Io sì, lo sto vedendo in questo momento su Croazia 2, appena finita la partita, Argentina-Nigeria. Sì. No, ma giusto, un po' di, ma basta fantasia, abilità, bastano un po' di cose. Insomma, trovo, Andrea, che al di là di questi escamotage perfettamente legali e anzi divulgabili ampiamente, come è giusto che sia, però trovo che quest'idea del mondiale servito in salotto per forza di cose dalla Rai non appartenga più al mercato sportivo televisivo del 2010. Nella fantasia complessiva potrebbe essere anche carino, se, visto che non tutti, io di sicuro no, capiscono la telecronaca croata, peraltro molto meno cacciarosa di quelle italiane, da questo punto di vista, abbassare e magari mettersi la radiocronaca della Rai di tutto il calcio minuto per minuto, quindi volendo uno anche il commento per così dire tecnico. Perché no a Tempo di Sport, siamo qui a raccontarvi i mondiali. Assolutamente. No, senta, ma io volevo chiederle invece una cosa, che è questa: cosa ne pensa di questa polemica, che trovo pure di estrema retroguardia, sul fatto sull'Italia negli uffici pubblici, Brunetta il mondiale, prendano le ferie, eccetera? Guardi, personalmente è molto stucchevole, peraltro molto. Io credo che un privato, ognuno del tempo suo, faccia quello che vuole. È pur vero che non permetterei mai, io la fortuna di essere un libero professionista, ma non mi permetterei mai di chiedere al mio datore di lavoro, se fossi un dipendente, di potermi vedere la parte dell'Italia. Mi organizzo come meglio credo, se ritengo di potermela vedere nelle quattro del pomeriggio. Oppure può essere anche un momento di aggregazione, no? Perché ci sono mille motivi, perché no? Non è per quell'ora e mezza, anzi, no, perché cala la produzione. Bravo, quella è altra demagogia aggiunta a tutta quell'altra che stiamo respirando in questi giorni. Grazie, Andrea. Bravo. Mi pare che in questi giorni di demagogia se ne faccia molto. Speriamo di poter vedere e parlare di calcio. Torna a trovarci, Andrea. Grazie. Siamo qui, grazie a lei. Ci sentiamo domani dalle 5 alle 7 con A Tempo di Sport. Grazie a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, a Pietro Accorto in regia. Domani niente caselli, solo castelli. Manda in ferie la tua auto, noleggiane una su europcar.it. Vi ha presentato A Tempo di Sport.